Piazza Santiago di 4, no, Gian Paolo, Radio Zinco. Come rotonda di Bricomen. Dove sei? Rotonda di Bricomen. E io sono sul 9 di Watt, però, attenzione. Mettiamo i puntini sulle i, Non so cosa dicendo. Se tu poni, per esempio, 20 watt, no, come arrivi 3, 4, buone. Aspetta, come... aspetta. Guarda adesso, 1, 2, 3, prova. E 20 si è abbassato. Non lo so, c'è HI. C'è low. Aspetta un attimo, faccio... che controllo, aspetta. Metti low. Low. Qui c'è low o mid. Adesso non mi ricordo più. HI, mid HI. Non lo so, al minimo sono adesso, minimo. Secondo me cosa c'è scritto? No. Infatti mi arrivo, sentiamo di 3 o 4. Aspetta, questo è low mid. Sto cominciando a aumentare. Aspetta, low mid. Mid HI. No, è HI in Singapore. Aspetta. Adesso non HI, al massimo. E quando te lo HI si affondo. Pronto adesso. A voglia. Capito. Sono in tappa 30, 20, no? Cioè, capito. Domanda, sono un'altra di palle la vetra, sempre in funzione. Gianlu, dove sei? Sto tornando dentro Sassari. Come senti? Sì che ti sento, forte e chiaro. Vabbè, si movimento pure. La radio com'è? 5, Giampaolo. Da bene, Dando. Luca, un attimino che scendo, che io sono arrivato qua. Un secondino, riprendo subito. E vai tranquillo, non c'è problema. Più meglio a Pusudorra, Giampa. No, te la attendo, adesso sta piovendo. Guarda, sta piovendo, Giorgio. No, ha un mezzo. No, ha smesso. Ma roba, dopo un po', poi cambia la dora che è più vendi, si butta più, mannaggia di turchi. No, no, qui dai, lo vendeva. Gino, madonna santa. Beh, vabbè, lasciamo a fare, se lo fa peggio. E troppo da dare, preparati i bombardatori. Sì, come è. È vero. Vabbè, mancano due mesi, giusti, E si manca un mese e li andremo, senti, un mese e una manciata di lì e un pugno di lì a due mesi e non mesi a Natale, mancano due mesi lui non prende, mancano due mesi fa pure così e poi a non mese giusto forse ci manca un mese e poi giù, là. No, anche che è il 25 a Trugoto, un mese è il 25 di novembre che mi manca, è appena 7, quasi due mesi so. No! Anche se mi noto, va a mancare di più. No, sono due mesi, siamo a novembre, no, abbiamo fatto già una settimana, se il giorno è 25... E manca un mese. E manca un mese, no, giusto, ha ragione, un mese e un paio di giorni. Ora, se oggi è il 25 novembre, facciamo l'esempio, al 25 dicembre è un mese, no? Di conti beh. Guarda, è un mese e un pugno di lì. No, devo vedere. Ah, le faccio. Ehi! Faccio il bar, mi dico un pugno a faccia. Ah, è un mese comunque, un mese è giusto giusto, là. Allora c'è un mese giusto giusto, se oggi è 7. Infatti ricordi, siamo il 25 di dicembre, non è un mese, no? È un mese manca, cazzo! Ma tu sei il Luca, cazzo, Gianlu? Abbiamo già fatto la settimana novembre, no? Questa settimana adesso, tu metti la... là! Già un attimino, se io ti dico a te, oggi è il 25 novembre, al 25 di dicembre quanto tempo è? So. Ah, senti, no. Scusa, 25, ma novembre, cioè, per me sono un attimino a dicembre, sono 25, di quant'è dicembre? No, è di 31 dicembre, e la conta, fatta da 25, 25, 26, 28, 29, 30, 31, quanto ne so? Da 25 si dice, 25, 26, 27, 25 sono, ma 6 giorni, no? 6 riso. Ah già, sì, ho sentito il mio pensiero. mezzo di sopra, sì, sì, sì. Quindi Natale è una vita piccola, l'ho fatto con lui a un mese, ma ora una chiesa, voglio dire, di novembre, quindi Natale è un mese, fra un mese, mi. Capito, mia? Fra 25, no, fra 25. Allora, manca il 48 di a Natale. Ora, oggi è 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 3, 4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 di vi mancano, più di un mese e mezzo è qua, si dà? Sì, io credo che io sono 48, sì, ma no, due mesi però mi hai detto tu. Vabbè, io ho detto che sì, hai già dato luce due mesi, ci ho detto, più o meno, passava poco due mesi. Tutto il giorno, e vabbè, io passo sempre, ma vabbè, tu sei un 20, ma è un peso che ti dico, una chiesa già è passata, e quindi per me, cioè, se fosse stato in dicembre, allora sì, sarebbe stato giusto, poi siamo in novembre, la fa ancora me. È stato un anno, e non si passa, non si passa di 40 lì, 48 lì, Mamma che per me rimanermi in Natale. Quindi fammi Natale con un attimo te lasci, perciò non me la puttassi a me. No, Natale. Guarda, Natale, è buono. Allora, per me vogliono come gli altri, Gianfano, non me la futti nuda. Rimani un pezzo di panettone, un pezzo di agnone, un mesata sei fumante, e buono. E poi chi si vede se hai visto? E la pizza non sono signori, no, è così. Vabbè, tu non ti ho avuto niente, hai visto? Ma infatti, capito. E va bene così, dai. Andrà bene. E poi si rompe, anche se no, niente. Vabbè, tu sei a Pedro Matteo, così non si trova niente. Vabbè, a piedi no, c'è un motorino, dai. Se non è stato con motorino, è stato con i morti, là. E si conferma. Dirmi, ecco. io ce l'ho preso, tutto l'altro. Ma io, però per internet si paga 34, eh? Per internet dovrei pagare a mese, ogni due mesi. Ogni due mesi. 34 ogni due mesi. E altrimenti? È buono, ci hanno messo la firma. E su Facebook anche. Ando. Provo da un anno circa. Dammi il cognome, vai. Su Facebook. Ma non trovo su da, cazzo, su tre violata, non è che non trovo su da, Pais. Violato. Ma, staccato Paolo, poi cognome Papa Alfa di la Sierra. No, è assoluto, non c'è foto. Io l'ho scritto Giampaolo oppure ma questa deve essere fuori del cielo. Ma di Luca Rossi? Ah? Luca Rossi? Dai Luca! Io fa male, sono comunque non mi dà solo uno e non ce l'ha fatto. Le persone che non sono amiche di Giampaolo vedono solo alcune informazioni sul suo profilo. Se conosci Giampaolo di persona, inviagli un messaggio oppure aggiungilo come amico. Certo, ho inviato un messaggio, aspetta. Messaggio Giampaolo. Aspetta un attimino. Hai detto che non farai che ci sei in questo. Va bene, già aspetta con 5 finale. Ma sembra che qualcuno c'è. Non si intende mai un palco. Se tu chiami non mi intendi. Ragazzi. Hai un baracchino in macchina, no? No, il baracchino non è in macchina. Ah, questo è in macchina. Sì, è specifico comunque, dai. No, ma a me sei c'è Luca. Io sono andato in macchina, ehi. No, basta questo. Ce l'avevamo un tempo dietro, ma non c'era nessuno, ci lascia una calzolata, non si sentiva, ragazzi. Un casino, papà c'è tutto, vogliamo andare un lineare. No. Posso, purtroppo. E vabbè, comunque, dai. Da casa tua già arrivi, comunque. Già arrivi lo stesso. Io non credo, dai. Ma già anche la sua barca piccola, mi pare sia quasi 5 metri. Che sta in fibra di carbonio, di banda, quella lì. Stavo dicendo, non puoi sempre bere il QRM, oh, mamma mia, guarda, è troppo sporca come frequenza, la molletta la 27, guarda. Non lo so. Già lo esorci, vabbè, come mi fa, purtroppo. Gusti. Davanti a Buca, adesso è Murichissa, va. Non è con i piccitti, mi. Ma ce la puoi. Mi sono i piccitti. Vero Giampa, ma noi quando tutti quanti fanno un'antenna buona, poi lo squelci, se le cominciano, allora si canta per la 27. La cosa è bella, la 27 è bella, se devi modulare la protozoologia oppure crossarsi, però devi sempre cercare di regolare lo squelch, capito? Allora sì, no, se vuoi tu, ho preso chi si ti pone diciamo, su QRM e uno che abbassa, non convenne, ma è rimasto un giuletto, ma carità, no. C'è di balle, è vero. È un casino, vabbè. Cosa vuoi fare? Se non è uno squelci, no, saltiamo le cose così possibili. Uno se arriva a saltiamo a tre, ti apre uno squelci e va bene. Capito? Così andrà troppo è l'uso. Sì, è vero. Sì, è vero. Vabbè, comunque. Direttore, sei a casa. Anche Giampaolo sta arrivando anche più forte. Salute, io... Adesso non siamo bene perché c'è l'antenna sul tetto, per quello è la differenza. Però l'uscita sto uscendo sempre con quei metti vatti va, da loro. E ho preso, no, non è stato mio, no. E da 25 a prima 50 rimane ancora da 25, Ma non esce quello lì con 50? 95! Ma no, no, negativo. Questo è da, non mi ricordo se da fa, da 5, 10 o 25. È vero, sì, c'erano. C'erano quei veicolari con quella potenza lì. Ah, ma va bene, intanto no, bisogna fare bocchi come a testa, dai. Perché però, professor, dice, perché va bene? Andava in Russia, è caduto a Rivera, io mi sentivo di lui, oppure sentivo di questa voce, Marco si muove lo smitter, o il LED chiama come voi, ma la radio 5, capito? È buono. Qual è la differenza? E confermo, ma arrivi sparato, arrivi benissimo, proprio la bomba, non c'è problema. Arrivi bene, bene, bene, bene. Magari ci arrivi così a Guaracchino. Magari, allora. Ma che? Ma c'è il pane di sole occhi mi, bubu. Ma se io vi. A voi. Vabbè, lasciamo imparare. Ah, purtroppo. Se andate a loco io magari migliore nel senso però di coso, migliore mezzo centia, non mezzo zona, ma vieni su, cibi, cappa cassa sassari di vela, che è Paolo, Mario Vela. Paolo, Mario Vela, ma è nuovo? Che è Paolo Vela 1? Che è Paolo Vela 1? No, è del 61 il suo pozzino. 39 anni. Via, via. Mi ha vita. Di cosa mi avrà detto? Tanto mi assicuro un nome, Si chiama Carlo. Abita lì a Bordo Torres. Ma ricordo come si chiama. Ma lo conosci di vista. Sta lì a 4 anni, 5 anni. Ah, no, mi sa poco. 4-5 anni, ma è conosciuto a Posudorra, travaglia pure a Posudorra, anzi travagliava lì al coso del Luglio, dove fanno, dove lì esercitano l'olio usato, E che ultima, Lisson? Già. Ah, Lisson, e che ultima? Non so come si chiama, non me lo vuol dire perché non me lo ricordo. E ti rammento io, di fronte all'Agipe, l'ho posto così ero? Senti, via. Perché non me la metto, per la più ingresso me lo conosco. Già lo conosco messo lungo io, qualche cosa, lo conosco bene. Ma lo conosci attore, chiamo di Blasco, lo conosci? E allora, tu allora all'epoca forse travagliassi qualcosa, con aspetta, ma per un'idea di impresa mi stesso un uomo, del dragone, da Secchi, con Secchi, con Marco. Io no, me l'ha detto. Ah, ecco, ecco. Tu conosci il burro sicuramente, si conosce attore, conosci proprio il Bradetto. Probabilmente sì, vabbè, comunque mi sta parlando anche di un po' di anni fa, eh. Tra poco l'ha finito in Chibi. Ma mi ha ripigliato, Barolo, anche non era una cosa ma. Era fermo, solo che aveva Tore Morito, De Logo, Sofiglio di Coso, Marchesi. Ma Tore Morito si chiama di cognome, è grosso, Quello per un po' di lunghi, amante di Pasco Rossi. Ia. Cazzo, con Tore avevo travagliato in carovana. Con Tore, Tore si chiama, chiaramente no. Sono contento che quando è entrata la folla lì, un bravo ragazzo. Tore mi conosce, ti devo dire che avevo travagliato diversi anni in cooperativa in pari. In coppia fissa da Boemi. In pari, in due. A coppia erami. L'ultima esperienza l'avevo fatta in Cedala. Alla cementeria, a Muros. Sai voci come mi prendete, non è da mai in pari ultimamente, da poco Poi sai, lì dice che è un casino, ti ammali, ti prende il cancro, un casino. Sei licenziato. Respiri cose che non devi respirare, ecco. Cazzo, sì, quello è vero anche, è un fiaco strano. Sì, come te l'avrà già conosciuta, vai da Luca, vai tranquillo, l'avrà già conosciuta tranquillamente. Ehi, vabbè, io comunque lì facevo un altro tipo di lavoro dentro, entravo dentro per quanto riguarda la sicurezza, capito? Guarda, c'è una saxo bianca, si chiama Carletto. Sì, no, sicuramente vai da, ma non mi vedi, non faccio in mente la faccia, dai, siamo così il volto. Però li conosco tutti perché ti ripeto, entravo lì, chiacchieravo, ci prendevamo il caffè assieme, a di notte, facevamo i turni, sì, lavoravamo i 24 su 24, figurati, ma i tre turni verani, facevamo mazzano, pomeriggio, notte, due riposte. Non la mazzia più qui per tutto quello che respirava, un casino in chiesetto, dai, non fa. Poi vabbè, ha problemi di circolazione anche, non... Ti ha trovato un altro, dai. Molto, molto meglio, pulito e tutto. Pulito, oddio, non respira roba schifosa, ecco. Questa ragazza, ascolta, ritorno poco in frequenza. Sì, l'ho capito. La di Rovena. La di Rovena 1, canale 21, cazzo, eh? Ah, c'era un bel del palo, poi l'ha lasciato, tanti anni. L'ha ripreso da poco, dai. Prima 21, io vedo bene un argomentissimo e poi lo gioco un bel tanto. Siamo degli anni per Paolo, eh? Amico di Gianni, va a attaccare la Gianni doppio numero, ti dice tutto. Sì, ma io ci sono molto prima di Gianni anche, quindi figlio di tu. Io Gianni doppio Roma lo sentivo, sì, guarda, però a Russi, ma io doppio 21, a meno che non ha giocato un uomo. E comunque c'è tanti anni, dai, c'è tanti anni. E sei lui di Gianlu? Sono qua, nei Lioni. Sarà una bomba, sì. Di fronte alla Quieti, lì, il distributore del carburante, Quieti. Sto scendendo piano, cazzo. Ma dimmi tu, ma come sono andando a 60, 70, 80, dai? Quindi era uno che veniva da qui, da Lugio. Nel cielo della strada, ma c'è uno per dieci. Ma sei in macchina, è morto, è morto un carro. No, in vettura, in macchina. Ma è una cosa che non si crede. Cazzo. Senti, una cosa del genere, cazzo, la rovescia la vita, da sempre. Ma vedo di più, vedi? Bisogna piano, vedi, tranquillo, e vedi, non sei riuscito a casarlo. Se è stato una massa, tu vedi, cazzo, avessi mirato il pieno. Non avevo pigliato Giampacchi, la giurisco proprio a 5 metri, ha giocato di chi c'è uno sterzo e mi sono comportato un po' nella linea meseria, mi sono comportato a metà di carriera, in mezzo, cammino di mezzo nella linea meseria, aveva detto tu, a 80 gioco Giampacchi, però sai, aveva detto, va bene dalla radio, sei lasciato a cogliendo la radio della macchina, oggi dico cosa ti avrei, magari ho rispondendo al telefono, un po' vale tu riesco, come hai detto tu, un po' vale su più, ti rendi la riesca. Ti ho ricevuto un ragazzo, la vita fa un paolo e stupido, guarda. E io non dico sempre, tutti gli uomini di... Sono andato a posto d'ora, andato solo a fa a Cilvestro, e fa la 180, 160, 200, 830, non ho più bisogno. A chi si scontrò lì, a prendere i parisi, invece dopo il cammino a 730, a 4, 50, ma di no. Invece di arrivare a Cilvestro, è un attezzo qui, non si fa niente. Sì, ma il discorso è che anche che oggi anche ha piovuto, meno male ha smesso di piovere, però la strada è quella che è, magari durante la settimana trafficata dal camion, perdono un po' di materiale, che cose, con le prime acque, diventa una zabuletta a stare buoni, ha girato la macchina in tondo. E infatti, claro, il compagno sentito, compare, attore, compare attore, oia. Mi dico che non ho coso, ma le metallone ancora buffendi. E la mia anima dove c'è la metallone? Ma forse ne uno così, non lo so, dove serve c'è la braccia pure a me. E se non avevi altro me l'avevi domandato, no? Me la riaverà un altro. Infatti, se ne avrebbe avuto me l'avrebbe detto, non sapere il compare, quello che ha dato, no? Non so perché tutta mai portato con il metallo. Ma non lo conosce, ecco Mario. Oh? Ma Mario, lo conosce? Mario, che tu hanno coppia Luciani? Ma conosco io, no, non sono presente, no. Luca, mi senti adesso? Sì, sembra forte. E cazzo, ma lo sai, ma cosa? Ha fatto uomini, tre sono paesi sono cavalli, palazzi, palazzini. Non ci credo. Un'antenna sul tetto, Armini, ecco magari, un'antenna sul tetto. Ma io sono in macchina, Giampa. Ma non hai capito, è come che è andata sul tetto, capito? C'è in macchina, è un motivo di base, è andata in altre capezzoli, con 50 watt, lì da canzone, anche io dalla moto dove ci vuole, cosa è la... Ma la moto c'è 50 watt di fare con quello? No, la moto non c'è quella che sta con 50. Cazzo, ma la moto c'è su 50 watt? Sì, sì, qua, bene, la, il moto è, mo, è, diciamo, non è lei mi banda, è mono, eh. Ecco, ecco. E ma me lo metterete? E poi farà solamente su, come si chiama, sui canali, neanche pure me, sui canali, ma PMR, no PMR, l'altra, in Amara. Oh, adesso non mi viene più il nome, a far Napoli, per su, via di... PMR 43 mega. Oh, tu già lo già lui. Luca, come ti chiama la savata che me la metto più, va a Napoli? Ma cosa, UHF? Sì, un'altra parte. Se no dove c'è le cose, per me, l'altra parte, non vede più. UHF? Poi, questa banda, perché dopo c'è la savata in quel canale lì, capito? LPD. Bravo, LPD. Ho compreso. Solo lì puoi parlare, capito? Solo. Nelle PD, ma neanche pure. Ma davvero? Doppia vera? Ma se sei doppia vera 21, non è doppia vera 21. Non è doppia vera? Non è così. Vabbè. Bei tempi, tempi belli c'erano all'epoca mia. Oh, Gesù, ma che dai. Uno dei due cammini si può dire. La frequenza adesso c'è molto anche quel rema, ma prima c'era poco e niente quel rema, non ti credevi ne assai. Allora sì, era altro, 5, 6, 3, 4, massimo di un'altra, ma all'epoca propagandone veniva a Buzzefa. Sì, ma no, Giampa, cazzo, bella più gente, burro, insieme... Ma è che la cazzo, non sei tutti altri, sì, antenne, ripetitori, gli anni bosso, ballo telefono, balli televisione, balli paraboliche, e poi gli balli d'acero. Cazzo, secondo me queste cose qua, radiofrequenza fanno anche. No, appunto per te, vabbè, e adesso non è che volevo stare lì a dire perché lo fa, perché no, lo so. Ma tu ti dici che brillasse che bisogna andare a satellite, è pure un coraggio verde. Figura che cazzo che ho pure con l'HF, gli dovrei, gli vali filtri, ma tutto, se passa un motorino ho gatto tutto fuori fase, sei fragrento, si intende che cosa mara? No, a me non mi piace, non è vero, no. Ma tu che hai capito il nesso discorso qua, è così proprio esattamente lo detto tu. È troppo casino, troppo, adesso è troppo, un bel, pacca e dai, non fate manco andare in macchina, ma neanche molto, come passi in certi posti e ti entra pure in macchina con qualche, hai ragione, con qualche in macchina sì, passi in certi occhi, mi so, allarme, vogliamo attenzione per quella, quindi figurati. No, le VHF no, Giampa, sono il giro di quelle, io faccio solo squelce, ho messo il tono squelce ed è finita la canzone. No, non è che il tono squelce, se tu passi, per esempio, ti ho fatto la panca, intendi il rumore. Negativo, non sento nulla, Giampa, te lo dico, questo qui è molto, molto selettivo, le VHF. Luca, mi senti qua? Sì, yeah, sempre bene. Certo, ma cosa ne stavo, Giampa, va? Mi sembra il mio figlio. Io arrivo, ma se tu mi lasci, mi fate così. È chiaro che arrivi dappertutto. Hai capito che arrivi dappertutto lo stesso. Ma voglio fare la vigliata io puro. Sentite più? Senta, giallo. No, adesso non lo sento. Senta, sono negativo. Giallo? Sono... Il cazzo mi sembra la piazza via libera, si dà le crisi. Sono proprio che in mezzo a parte. Ah, vedete, senti adesso. Non lo senti, giallo. Prova, giallo. Sì, adesso ti ho sentito anche io. Deve essere stato proprio... Se sono passato un pezzo di... Io sono negativo allora adesso. Negativo, negativo, negativo. Mi serve il telefono, attivo, posso uno spillo, una riga via, un attimino, aspetta. Mi fa passare la molla? No. Allora... Non si può trasformare. Secondo un singolo senza luce, gatto.